Allora. Siamo tornati. Cioè, insieme, vedi, siamo entrati oltretutto in contemporanea. Splendido lavoro, assolutamente. Poi si sentiva, si sente proprio nell'ascolto di questo brano l'atmosfera degli anni 70 in maniera veramente molto marcata. Sembra quasi di vedere un'immagine tratta da un film anni 70 americano, ti dà proprio un'idea stradaiola, una sorta, quasi mi ricorda un film capolavoro di cui parlavamo proprio mentre ascoltavamo il brano, Coffee del 1972, che si apre con questo splendido brano in apertura. È una macchina, una di queste macchine gigantesche che venivano utilizzate negli anni 70 in America, che scorre lungo una città americana nel pieno della notte. Ecco, proprio sono atmosfere che sicuramente legatissime a questo periodo, questa magia sonora che rappresenta quasi una magia artistica e espressiva che raccoglieva tutto l'aspetto stradaiolo underground degli anni 70. Ecco, questa è sicuramente una delle cose più emozionanti, almeno per noi che siamo cresciuti anche molto attraverso film e telefilm con musiche bellissime che proprio arredavano i film e le visioni fin da quando eravamo bambini. Un lavoro veramente splendido, è un omaggio ovviamente a questo grande musicista che ci ha lasciato un mese fa, ma d'altronde gli anni passano e musicisti che hanno attraversato gli anni 60-70 chiaramente ormai sono alle soglie degli 80-90 anni, e dunque fa parte appunto di una questione anche naturale, però era bello ricordarlo attraverso questo splendido lavoro del 1973, sbaglio? 74. Sì. Adesso invece ci spostiamo. Sì, ci spostiamo nel anche nel 73, di un anno. Sì, infatti torniamo indietro di qualche mese, andiamo a trovare un lavoro di un giapponese, quindi anche geograficamente ci spostiamo di un po', e Teruo Nakamura, tra l'altro non c'entra niente con l'altro Nakamura che farà elettronica negli anni 90 e anni 0, giapponese ma trapiantato poi negli Stati Uniti, anche se poi avrà questa liaison, questo ritorno poi al Giappone per tanti aspetti. Le musiche si tingono sì di esotismi, ma sono esotismi funk, e c'è un linguaggio insomma che anch'esso va tanto a prendere da quello che era poi anche una sperimentazione che stava succedendo anche in Giappone di fatto, e con pressi che andavano sulla free music in generale. E Teruo Nakamura soprattutto con personaggi che poi tra l'altro come Steve Grossman si daranno poi alla fusion vera e propria, quindi scivoleranno anche su un suono così decisamente banalizzato rispetto appunto all'esperimento del jazz rock. Però ecco, in nuce e soprattutto in questo Unicorn che andiamo a sentire, soprattutto col pezzo Unicorn Lady, si va appunto dentro quella strada, però anche con quel senso appunto di lontananza che riesce a dare Nakamura, provenendo appunto dal Giappone, terra poi dove veramente il paradosso diventa una filosofia anche di vita, se pensiamo allo Zen, ma se pensiamo insomma a tutte le musiche, al cinema che il Giappone insomma ha sempre riuscito a affascinare, a creare un'alterità, no? Sei d'accordo, caro? Assolutamente, anche perché poi l'aspetto giapponese è un aspetto importante da ricordare, perché il Giappone è stato estremamente affascinato da tutto il periodo jazz rock e jazz funk. Non a caso moltissime poi etichette, produzioni giapponesi hanno riconfezionato, rimasterizzato, rieditato dei vecchi lavori americani, non solo, soprattutto negli anni 90 e negli anni 0, recuperando dei materiali che si erano anche un po' persi. In più in Giappone c'è stata sempre una fortissima attenzione anche nei confronti del jazz rock europeo, in particolare anche quello italiano, che affronteremo proprio tra pochissimo. Dunque infatti due formazioni poi fondamentali della storia del jazz rock italiano. Se pensiamo al Giappone, pensiamo a Quanto Davis degli anni 70, quello che non veniva più considerato in America quanto invece in Giappone fu considerato con vari live che fece proprio in quegli anni. In Giappone, proprio in Giappone, a Tokyo in particolare, e i giapponesi produssero un sacco di live di Miles Davis, che aveva un terreno completamente spianato in Giappone, mentre in America in alcuni casi è stato anche molto criticato, soprattutto nel cambio dal jazz modale verso il jazz rock, che molti critici lo consideravano come svolta commerciale, come svolta furba per andare incontro alle folle oceaniche dei concerti rock, dunque strizzando un po' l'occhio, no? Altri invece in maniera assolutamente moralistica, come musiche da tossici, e Davis che si era andato completamente in pappa con le droghe, quindi insomma si sono unite poi le due voci e si è creato un mostro, un mostro infinito, tant'è che Davis rimase fermo per 6 o 7 anni, sì, dal 75 fino all'81, che fece uscire un disco insomma abbastanza opinabile, anche se aveva degli elementi interessanti. No, poi è giusto anche ricordare, si trasformò in pop poi, no? Sì, poi si trasformò in pop, ci furono anche delle piccole cadutine fusion piccole, sì, e poi si spostò verso invece sperimentazioni anche interessanti prima di morire, sì, verso l'hip hop. Però anche giusto, ne approfitterei anche per affrontare un po' il tema che avevamo annunciato all'inizio, cioè questo discorso che spesso e ancora adesso continua a essere un po' sovrapposto tra fusion, jazz rock, sperimentazione. In realtà la fusion è tutt'altro. Stasera noi stiamo cercando di sviluppare un discorso legato a questo fenomeno del jazz rock, che ha avuto anche delle diramazioni particolari, spostate verso il funk e anche verso la new wave, e lo vedremo verso la fine della puntata. E comunque la traccia era quella di esplorare nuovi linguaggi attraverso una contaminazione tra psicadelia, un certo rock sperimentale, la forma jazzistica nera, fondeva fondamentalmente musica nera, musica bianca, però in un'ottica di ricerca e di sperimentazione, non certo in termini prettamente commerciali come molti cercavano di far passare. Anche molti critici italiani molto osannati, che hanno stroncato per anni i lavori di Davis, e non solo di Davis, tutto il fenomeno, tutto il percorso jazz rock, per poi ricredersi dopo 20-30 anni, quando è diventata fusion, infatti, per dire no, effettivamente quella roba lì era diversa dalla fusion che è uscita poi negli anni 80 e in parte negli anni 90, e dunque ricredendosi e facendo ammenda un po' troppo tardi, perché in realtà all'epoca ci sono state fatte delle cose splendide, anche un po' dimenticate, anche un po' nascoste. Sì, a proposito di peli e di pelosità, ecco, infatti se andiamo a sentire Teruo Nakamura. We'll be right back. E qua il virtuosismo era ancora utilizzato, forse non era ancora virtuosismo, cioè come sarà poi appunto uno dei momenti forti, chiamiamolo così, della fusion, forti si fa per dire, insomma. E, ma un momento insomma dove la tecnica comunque era dentro un progetto insomma di musiche che cercavano di spostare chiaramente le lancette dell'orologio, non soltanto appunto per il jazz, il tentativo, poi il termine appunto è fuorviante in questo senso, veramente cercavano una fusione, in quel senso poi fusion anche come termine insomma è ambiguo e lavora anche in questo senso in termini di marketing, prima accennavamo a questa cosa, come d'altronde poi la non differenza che si fa tra tanti lavori, come se appunto le cose che stiamo passando questa sera poi non avessero anche all'interno degli stessi autori, negli stessi percorsi, grandi differenze. Prima citavamo un Miles Davis degli anni Ottanta con un pop anche molto spesso insomma di grande originalità poi, no? Però se pensavamo prima ad esempio usciva Steve Grossman che suonava in questo pezzo tra l'altro di grosso valore di Teruo Nakamura, Unicorn Lady, beh è chiaro che come strumentista è ben diverso insomma il lavoro poi che fece negli anni Ottanta, tra l'altro anche con le formazioni proprio di Davis mi pare lavorò. Sì, sì. E faccenda che insomma dal Giappone ci porta direttamente o indirettamente, tanto è lo stesso visto che poi all'epoca se ne sbattevano anche abbastanza in questo senso, altro che world music, c'era un'idea globalizzata di lotta, di musica, di cambiamento radicale, quindi come dire, ça va sans dire, direbbero i francesi, aria in Italia. Sì, beh, qua entriamo in un universo estremamente ampio che cercheremo di raccontare velocissimamente perché sennò ci toglierebbe l'ultimo periodo di questo spazio radiofonico di stasera. Aria, formazione assolutamente fondativa del jazz rock e della militanza politica legata a questa espressione musicale, gruppo che è sempre stato schierato politicamente nei gruppi rivoluzionari e comunque nel movimento rivoluzionario italiano dichiaratamente comunisti. Non a caso l'album che abbiamo scelto è Arba e McFry con dentro la P38 con comunisti e con extraparlamentari che già è appunto l'album del 73 che poi ovviamente anticipava tutta una serie di cose che già accadevano perché gli arresti, le azioni armate erano già in corso nei vari gruppi, poi nasceva poi realmente anche il progetto che poi si è articolato nel tempo già nel 73 del progetto dell'autonomia a cui loro comunque facevano molto riferimento e poi negli anni 75, 76, 76 dal Festival di Renudo al Parco Lambro a tutte le sperimentazioni anche collettive di ritrovo, di incontro fra i musicisti, gli artisti e le persone che partecipavano, che poi erano un tutt'uno perché c'era un'interazione fortissima. Questa idea rivoluzionaria appunto attraversava, come diceva giustamente Max, attraversava tutto il mondo attraverso appunto un'idea internazionalista assoluta che ovviamente è stata una delle caratteristiche fondanti di questo periodo degli anni 70. Gli Area, abbiamo proprio scelto il primo album uscito come formazione Area International Popular Group, non a caso si chiamava così, e nel 1973 appunto provocando sicuramente anche un grande scompiglio nell'ambito cosiddetto istituzionale, non solo per queste provocazioni piuttosto forti che gli Area mettevano in campo non solo nei concerti ma anche allegando appunto tipo una P38 cartonata dentro i vinile. E Arba e McFry con questa formazione importantissima sviluppa un'unicità di un jazz rock italiano che inserisce oltretutto anche per la esperienza personale molto forte di Demetrio Stratos che originalmente è greco ma ha vissuto vissuto anche molto in Egitto, nei paesi medio orientali, studiando e lavorando molto, cercando di sperimentare sull'uso della voce, ma anche sulle melodie, sulle ritmicità di tutto un universo anche differente dall'Europa, mischiando tutti questi elementi, costruendo un suono assolutamente unico e originale, con una assoluta e marcata forza espressiva e comunicativa. Ce lo andiamo a sentire e insieme poi entreremo in voce successivamente anche un altro gruppo schierato politicamente, estremamente interessante e importante della scena jazz rock italiana, cioè i Napoli Centrale. Intanto partiamo con lo storico disco degli Area, Arby McFry. fino all'ultimo secondo, un pezzo clamoroso di Jamesenese, che all'epoca insieme ad Aria stava veramente portando il jazz rock italiano, ma diciamo un modo di intendere la musica, perché poi uno degli aspetti insomma fondamentali che unisce gli Aria e i Napoli Centrale è sicuramente un aspetto quasi medio orientale, mediterraneo, che attraversa tutte e due le formazioni. Jamesenese per il fatto insomma di essere nero a napoletano e per insomma fatto eccezionale di quella città attraversata veramente da mille colori, mille etnie, di fatto insomma una città che di fatto è stratificata, e le Aria con appunto questo sempre tensione internazionalista, non soltanto internazionalista, anche proprio anticipando quello che poi è il discorso insomma compiuto dalla globalizzazione, ma in termini anche qua di marketing e di accettazione quasi anche di pensiero unico, perché se pensiamo insomma quello che si intende con globalizzazione ora, ecco, all'epoca appunto l'internazionalismo e il vedere insomma oltre gli aspetti di casa, addirittura la casa completamente sfasciarla per appunto stare dentro il mondo, no? Questo era un po' il segno sia di Aria, di Albert McFry, ma poi quello che porterà anche Stratos a fare sperimentazioni incredibili, a portarlo insomma a collaborazioni che erano assolutamente alla pari con John Cage, quindi con veramente un linguaggio che da militante, da politico diventava sul serio internazionale, internazionalista di fatto, cioè praticandolo insomma, questa eccezionalità di Stratos. Per un periodo anche Napoli Centrale riuscirono a portare il popolo napoletano, ma popolo nel senso storico del termine, quindi con tutta la forza, anche la forza rivoluzionaria, e quindi anche la grande rappresentazione storica e anche viscerale, se vogliamo, proprio della strada, del ghetto, del ghetto che vuole uscire appunto nella strada, vuole farsi piazza, vuole farsi qualcosa, vuole farsi addirittura città e andare anche oltre. Quindi un momento insomma non soltanto chiaramente musicale. Quando si parla di certe cose non si può, per anni poi è sembrato quasi un tabù, no? Tirar fuori la politica legata alla musica, no, non era così, era un tutt'uno. Poi appunto si è scissa la cosa, l'estetica poi ha voluto anche molta critica, non soltanto musicale, oppure musicale ma anche ideologica, e ha voluto scindere le cose di fatto insomma accettando poi un pensiero unico. Beh, quando allora appunto si sente, si ascolta la musica, certa musica, non si può avere non si può fare a meno anche di un atteggiamento politico. Poi se non si ha, e comunque si ha soltanto un atteggiamento estetico, poi basta riflettere un attimo, basta veramente soltanto guardare le copertine e sentire un attimo le parole, sentire la musica nel vero senso della parola, facendosi appunto attraversare da questa, per trasformare anche appunto l'ascolto e il vissuto in qualcos'altro, no? E Stratos poi ci porta anche all'odiernità, no? Con Eome, sì, no? Stella Grecia, chiaramente un piccolo accenno dobbiamo farlo, anche perché noi chiaramente come 451 siamo completamente schierati col popolo greco, e qua direi che possiamo dire assolutamente tutto attraverso questa parola, parlando anche di pensiero unico, di sistema unico dominante, insomma la Troica Europea, l'Unione Europea e in particolar modo BCE, il Fondo Monetario Internazionale, che dovremmo aprire qua un capitolo veramente ampio, perché sono degli infami, sono la parola giusta, infami di proporzioni gigantesche, infami e criminali. E criminali, perché qua qualcuno l'ha detto, in Grecia è già una situazione disperata, i suicidi sono aumentati in maniera mostruosa, i livelli di disoccupazione sono al 27-28%, i livelli di povertà sono incredibili, e la Grecia è soltanto il paradigma, ma dietro l'angolo ci sono tutta una serie di altri paesi che potrebbero finire in questo circuito. No, ma poi il ricatto appunto delle banche, con anche veramente discorsi demagogici che sono seriamente demenziali, magari si fermassero a quello, perché poi diventano anche pericolosi, stupidaggini e fesserie infamanti, tipo appunto che soldi sono anche soldi degli italiani. Sì, stanno, cioè, girando anche questo. Come se quei soldi lì che effettivamente poi passassero appunto dal popolo italiano o arrivassero appunto a questo. Qua c'è un discorso politico cattivo, sporco e immondo, quello appunto di ricattare la Grecia e quindi farla stare dentro il diktat europeo, liberista, europeo, europeizzante, e fare insomma usura, perché d'usura si parla. Sì, questo è strozzinaggio puro. Esatto, rispetto appunto agli interessi, e quindi è veramente un quacervo di munnezza che veramente supera quasi ogni immaginazione. E noi abbiamo un caro governante che ha dato pienamente ragione alla Merkel. No, ma perché, tra l'altro, mistificando anche la faccenda, dicendo qua il referendum di domenica, che è il referendum invece coraggioso, e che appunto vuole sondare attraverso appunto il voto, utilizzando questo strumento di domenica, è quello che appunto il popolo greco pensa, ma non rispetto a tornare alla dracma, come hai detto appunto, infatti, quel pagliaccio di Renzi, quel pericolosissimo pagliaccio, tra l'altro. È pericoloso, sì. Ecco, e lui e tutta la sua risma di mafiosi vari, e così insomma la diciamo un po' tutto. Poi vabbè, mi fermo qua, perché sennò poi bisognerebbe dire un po' di cose anche su che dopo ci allarghiamo troppo. Sì, no, dopo. Ma poi non si tratta neanche di allargarsi, perché insomma siamo a Bologna, quindi capitale, esatto, diciamo, non ci dobbiamo neanche allargare, no, infatti ci dobbiamo restringere, perché siamo qua, ecco. Comunque, restringiamo andando oltre, anche se purtroppo vedremo cosa succederà, e speriamo bene nel voto ovviamente greco, e speriamo insomma nel no, ma soprattutto che la finiscono con questo ricatto, e con anche questa informazione assolutamente infame, ripetiamo questo termine, che sta parlando di accordi eccetera, chiaramente per pompare le borse, per screditare insomma quello che può essere un percorso alternativo rispetto a un diktat appunto europeo, a questo diavolo di pensiero unico liberista e capitalista. Infatti, andando appunto, rientrando dentro il nucleo della puntata di stasera, ma anche questo in realtà è un nucleo, perché abbiamo parlato del discorso legato al jazz rock, all'aspetto anche politico legato soprattutto ai due progetti che abbiamo ascoltato italiani, dei Napoli Centrale e degli Area, e andiamo invece a presentare un altro autore importantissimo, da un disco splendido del 1979, che ha segnato sicuramente un passaggio di un certo jazz rock, che si avvicina sempre di più a qualcos'altro, a quello che ormai emerge a New York, non solo a New York ma soprattutto a New York, cioè il movimento No Wave, che si svilupperà poi nei primi anni 80, e già in questo disco si sentono molti molti legami attraverso questo nuovo quacero, questo nuovo universo musicale, linguaggio musicale che si sta evolvendo, e lo sentiamo anche in maniera molto esplicita attraverso il titolo dell'album, che è proprio No Wave, e parliamo di James Blodhammer, che appunto andiamo a prendere con questa fusione incredibile, assoluta. We'll be right back. James Blodhammer, una fusione incredibile. Abbiamo voluto insomma quasi terminare, perché tra poco insomma vi porteremo, omaggiando tra l'altro un altro grande artista, vi abbiamo voluto portare proprio alla fine degli anni 70 e alla fine degli anni 70 con appunto un'incredibile fusione, questa sì, tra quello che è stato, poteva essere anche lo sviluppo, un certo sviluppo di jazz rock, che per tanti versi lo è anche stato, dentro appunto un suono punk, dentro un suono stradaioli newyorkese, quello della no wave, quello appunto dell'incrocio veramente tra musiche che provenivano da tutte gli spiriti inquieti e che creavano un quacervo incredibile violenza rivoluzionaria sonora e appunto immaginario, che andava veramente a creare o anche decostruendo, perché poi molte faccende legate alla new wave decostruirono di fatto un linguaggio sonoro già consolidato. Lo stesso anche punk, la stessa new wave, che appunto veniva declinata come no wave, in questo caso appunto uno strano jazz rock che andava a impattare con la no wave, tanto da non definirsi né tale come no wave né tale come jazz rock. Infatti chiudiamo proprio con un autore che oltretutto abbiamo omaggiato in 451 intersezioni circa 10 giorni fa, Ornette Coleman, purtroppo grande autore, grande compositore del Novecento, grande sperimentatore, uno dei grandi protagonisti della nascita del movimento del free jazz, che poi ha saputo reinventarsi costruendo il movimento free funk con il progetto Primetime. Proprio abbiamo scelto un album uscito nel 79 col Primetime, formazione che inserisce dentro le sperimentazioni free di Coleman l'aspetto funk e chiaramente anche accenni new wave. Non a caso l'abbiamo messo insieme all'autore che abbiamo ascoltato e che ascoltiamo ancora in sottofondo, un brano esplosivo, una forza assoluta, stradaiola anche da parte di Coleman, e lo vogliamo omaggiare anche stasera, dato che è scomparso da pochissimo tempo, un autore che è stato un po' rimasto anche sotto silenzio questa sua scomparsa. Ci aspettavamo un'attenzione maggiore rispetto a un autore così importante. Noi chiaramente vi salutiamo qua e vi ricordiamo che il prossimo anno ripartiremo, non sappiamo ancora bene in quale formula, dunque valuteremo insieme collettivamente con la radio le formule per la prossima stagione di 451 frammenti sonori, 451 intersezioni, se si trasformerà, se nascerà qualcos'altro, ve lo sapremo dire sicuramente attraverso il nostro blog, è sempre 451frammentisonori.noblogs.org, dove troverete le informazioni per l'inizio della prossima stagione, e chiuderemo 451 intersezioni con la puntata speciale con Elisio Scarpa e Max Macchia lunedì 13 luglio alle ore 20 per la chiusura totale del nostro network 451. Velocissimo, perché il tempo è pochissimo. Spettacolare. Ciao cari, buonanotte. A lunedì 13. Ciao.